Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno e buonasera. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Istruzioni per l'ascolto. Questa è una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Ci occupiamo qui di creare uno spazio culturale, emotivo, culinario, filosofico, musicale, tutto cruelty free. Siamo una piccola redazione, smilza ma motivatissima, che cerca di raccontare la cosiddetta questione animale in tutte le sue sfaccettature. A partire dalla cronaca e dalla vita quotidiana di ciascuno. Per qualsiasi commento saremo lieti di leggere le mail che vorrete inviarci a restiamoanimali@gmail.com o vostri commenti ai nostri post nel blog restiamoanimali.it, dove troverete tutti i contenuti di questa e di tutte le precedenti puntate di questa trasmissione. In questa puntata manderemo in onda due tra i migliori servizi che abbiamo realizzato nella storia di questa trasmissione. Uno è quello sulla capretta Giacomina, l'altro è un'intervista realizzata con Enzo Maiorca. Ma ci sarà spazio anche per una rassegna stampa, per tornare sulla figura di Gandhi, per ascoltare un pezzo di Sinéad O'Connor e per una ricetta di cucina. Ma partiamo subito con i contenuti di oggi. Sappiamo che il capretto è la vittima sacrificale per eccellenza. Tu pecchi, poi uccidi il capretto al dio ed è come se non fosse successo nulla. La capra domestica, capra hircus, è quella che viene allevata e sacrificata più spensieratamente. Mentre la capretta tibetana non è un animale da reddito, ma è una specie ornamentale o di affezione. Nella top 10 specista, quindi, ha un miglior piazzamento. Oggi vi parleremo di Giacomina, una capretta domestica che, grazie alla sua amica umana Mirtilla, è scampata alla teglia con patate e sta conducendo una vita intensa, spensierata e dispettosa nella pianura padana tra Parma e Reggio Emilia. Permesso? Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera. Cara. Allora, siamo qui con la signora? La signora Mirtilla. Signora Mirtilla, dunque, vedo che nel giardino di casa sua c'è una bellissima capretta. Si chiama Giacomina. Da quanto tempo ha questa capretta? Saranno 7-8 anni che ce l'ho. È la prima cosa che faccio al mattino, la vado a prendere nella sua stanza, che c'ha la sua stanza tutta sistemata. D'inverno gli metto la lampada che riscalda e poi c'è il telo e lei sta al caldo, poi viene fuori, perché lei sola non ci può stare. Se non la vedo al mattino presto mi fa morire l'ansia. Io la devo vedere perché io e lei parliamo. E poi lei esce con me e tutto il giorno ce l'abbiamo qui in cortile. Lei accompagna mia mamma perché mia mamma è disabile. Poi naturalmente le fa anche un sacco di dispetti. Cioè che dispetti le fa? Avendo il cestino nel deambulatore che ha dentro tantissime cose, le sue cose personali, si porta un giornale, un libro, e lei naturalmente le fa di tutto finché non le ha vuotato il cestino, al che si sente mia mamma che urla: Mirtilla, ven a veder che lavor, la ma porte via tutto. È vero, è una cosa, tutti i giorni immancabilmente è una sceneggiata.

Vegan at Work. Storie di vegani al lavoro. Oh yes. Michele Mucci è laureato in storia del costume e anche un reale esperto di costumi e tessuti, un arredatore, un attore, un performer. In sintesi è un artista molto eclettico. Michele è alla ricerca di un lavoro cruelty free. Le sue parole ci raccontano dei dilemmi che affronta una persona con una sensibilità animalista, antispecista e vegan nelle sue esperienze lavorative ed artistiche e di un progetto di performance che ha in mente e che dovrebbe intitolarsi Siamo tutti aiuole. Nella ricerca di lavoro uno stile di vita etico e cruelty free può essere inofficiante, nel mio caso lo è, perché diventi molto più selettivo, per cui cosa succede? Cerchi di evitare, per esempio nel mio ambito, costume, moda, tessuti, eviti tutto quello che è pelletteria, eviti tutto quello che è maglieria dove si può usare della lana, si può usare della seta, non ti va di essere infilato in migliaia di metri quadri pieni di sofferenza. Perché comunque, anche se sono cartelle colori, sono risultato di sofferenza. E semplicemente lavorando a una cartella colori, che è un lavoro per cui uno ha fatto anche degli studi, per cui uno è preparato, semplicemente facendo una cartella colori da mandare all'estero per vendere una collezione, tu ti rendi conto che mentre attacchi il tuo pezzettino di 3 cm per 5 del colore giusto accanto al colore giusto, quei due pezzettini serviranno per vendere migliaia di capi di cashmere. Per cui tu in quel momento realizzi non che stai attaccando un pezzettino, ma che stai ammazzando e torturando milioni di animali. Tempo fa, non essendo neanche vegano e collaborando con un grosso museo, ho presentato tramite loro una mia performance personale su una tematica non vegana, una tematica di un altro tipo di lavoro. E durante l'installazione però della sala per lo spettacolo, situazione molto estetica, molto minimal, le sedute erano a terra e mi hanno proposto una serie di pellicce di pecora, sinceramente molto belle da vedere nel contesto. Ho avuto pochissimi secondi per poter rispondere sì, va bene, no, non va bene, e ho risposto no, non va bene, quasi rovinando uno spettacolo, perché poi sono arrivati una marea di cuscinetti orribili da seggiolina messi per terra di colore terribile, perché era un blu sorrisi e canzoni e un senape. Invece, per quanto riguarda una tematica di questo tipo da inserire in una performance, in realtà ci ho lavorato, ho degli schizzi, ho un progetto abbastanza ampio, anche questo nato come primi vagiti prima di me diventare vegan, che ormai risale a 3 anni fa più o meno. Questo progetto vorrebbe dare spunto, quantomeno di riflessione, su quanto nella vita quotidiana a 360 gradi siamo costretti a calpestare le aiuole per forza. E intendo calpestare le aiuole, siamo costretti comunque a interfacciarsi con situazioni non cruelty free, a situazioni che volenti o nolenti hanno fatto del male a qualcuno, ma degli animali, e non solo degli animali, spesso anche degli umani. Questo, siccome capita sempre, dai prodotti che compriamo non sappiamo cosa c'è dentro, dal finire in ospedale d'urgenza e quindi prendersi qualsiasi cosa ti danno sperimentato su chiunque. Io in questo momento sto facendo veramente cose diverse, per cui posso passare da un ricamo del 700 a una collezione di moda dell'estate prossima del 2015. Sicuramente la cosa principale sarebbe riuscire a trovare un lavoro dove, anche se forse non il tuo lavoro perfetto, che forse neanche esiste, ma dove non ti devi trovare a confronto sempre con un materiale che non va, un'uccisione che non va, una tortura che non va. Quindi secondo me sarebbe quella la non tanto il tipo di lavoro, ma un lavoro dove finalmente questo problema qui non esiste. The telephone, love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. In questi giorni nei social network gira un interessante post. Ecco 25 cose che un vegano si è sentito dire almeno una volta nella vita. Se fossero tutti come te, il mondo sarebbe invaso dagli animali. Dai, mangia il pesce! I pesci mica soffrono. Tanto gli animali sono già morti, mica li uccidi tu. Quando guidi però i moscerini li uccidi, eh? Dai, prendilo un pezzo di formaggio. Tanto non ti vede nessuno, non lo diciamo mica. È impossibile che tutto il mondo diventi vegano. Cosa mangerebbero gli esquimesi? dedichiamo a tutti gli esquimesi in ascolto la ricetta di oggi. La scorsa puntata vi ho dato la ricetta per fare la margherina in casa, così da essere sicuri di non incappare nell'olio di palma. Oggi vediamo come utilizzarla in una ricetta base di pasticceria, in versione vegan, la pasta frolla. Gli ingredienti sono 300 g di farina, 50 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 150 g di margarina fatta in casa, 90 ml di latte vegetale o di acqua, la scorza di mezzo limone o arancio grattugiata, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. In un recipiente unite la margherina, l'acqua, lo zucchero, la vaniglia, la curcuma, la scorza di limone e il sale. Insomma, tutti gli ingredienti ad eccezione della farina e della fecola. Impastate il tutto con molta energia e quando tutto sarà ben amalgamato aggiungete la farina e la fecola. Lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante non lavorare troppo la farina affinché non si rompa il glutine. Questo darà maggior friabilità e croccantezza alla frolla. In caso contrario, tenderà a diventare elastica. Formate un mattoncino, spolverizzatelo con poca farina e lasciatelo riposare in frigorifero almeno per un'ora prima di utilizzare la vostra pasta frolla. Sostiene Vallauri. Giovedì 2 ottobre è stata la giornata mondiale della non violenza, proclamata dall'ONU proprio nel giorno della nascita di Gandhi. Nella rubrica filosofica Sostiene Vallauri, il nostro pensatore di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri, ci racconterà qualcosa sulla vita di questo gigantesco animale umano. Tutto quello che posso dire è piccolo e senza proporzione con la grandezza di Gandhi. Gandhi, come Shantideva, Patanjali, Milarepa, l'autore del Vijnana Bhairava, è presente vivo in me, direi, continuamente. La sua vita e il suo piccolo libro Antiche come le montagne sono inesauribili. Mi ha formato, foggiato, orientato, diciamo anche ritoccato. Io lo vedo come uno dei più grandi politici della storia, insieme a Akhenaton o Ashoka, sovrani che hanno saputo essere anche sovrani dello spirito. Lo vedo come un'icona storica suprema della Ahimsa, la non violenza, che lui ha saputo creativamente traghettare dall'ascesi individuale antichissima, quella dei rinuncianti, all'azione collettiva moderna. Lo vedo come un'incarnazione della Mahakaruna, la grande compassione universale buddista, estesa individualmente a tutti gli esseri, soprattutto agli esseri senzienti. E non a caso è stato il maestro di Capitini, il grande italiano. Ha ottenuto con la forza della verità, Satyagraha, l'indipendenza dell'India dagli inglesi, ma ha sempre detto che un'indipendenza politica senza perfezionamento morale non lo interessava, non era una vera liberazione. Ha esposto eroicamente la sua vita fino a morire martire per mano di un correligionario fanatico. Certamente è stato un genio della ragione morale. Qui sottolineo la parola ragione. Era profondamente religioso, ma subordinava ogni religione alla ragione. Ha avuto grandi avversari già in vita, non i piccoli detrattori attuali. Avversari come Rabindranath Tagore, che lo criticava per il suo scarso interessamento all'arte e all'alta cultura, come un marxista di cui adesso mi sfugge il nome, che lo criticava perché non faceva la rivoluzione violenta, e soprattutto come Ambedkar, l'intoccabile, il fuori casta, diventato buddista razionalista, iconoclasta. Ha compiuto il più grande atto iconoclastico della storia, bruciando i Veda in pubblico e riportando il buddismo in India, che era stato esiliato per secoli e secoli. Ambedkar, il padre della Costituzione indiana, che trovate in tutti i crocicchi dell'India con la Costituzione sotto il braccio. Il pensiero di Gandhi, lui lo sapeva benissimo, è cocciuto, un aggettivo che lui usava, non sono originale, sono cocciuto, e spesso discutibile. Ma proprio il jainismo, che è la sua matrice culturale, lui è del Gujarat e ha una mamma jainista, il jainismo insieme all'induismo insegna la pluralità di prospettive. Quindi Gandhi in quello che dice è cocciuto ma assolutamente non assolutista. L'India di oggi, l'India della corsa alla occidentalizzazione e modernizzazione, lo celebra come padre su tutte le banconote, come Mahatma, Bapuji, Paparino, ma non lo segue. Penso che molte sue idee sulla tecnica, sull'economia, sull'essenzialità nello stile di vita e nei consumi siano al tempo stesso antiquate e progressiste, come distanziamento dall'ideologia dello sviluppo illimitato che ci seduce e ci travolge. La sua non violenza resta un faro luminosissimo, un necessario appello all'intelligenza e al cuore di tutta l'umanità. Il canto mattutino degli studenti e delle studentesse della sua università Vidyapith, fondata nel 1920, quel canto mattutino di ragazzi e ragazze seri, prima dei corsi di lezione, per me professore da una vita, è stato uno degli incontri più sublimi. Mi sono prostrato e ho detto: Dio è questo. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.